la Proxel, di Reggio Emilia, che stava commercializzando, però mi pare che siano fuori catalogo anche della Proxel. Si spera che poi li riprendano, qualche ditta riprenda il progetto. Sì, oramai lo fatti riprendono. Sarebbero 35 anni più o meno per stato il sviluppo di quelli lì. Cioè, ti rendi conto, 35 anni. 35 anni... sono un ragazzino io. Sono parecchi. Caspita. Invece tutti quegli apparati basati sulle schede Cybernet, tipo Ultimo Ode, tipo Concorde, tutti spariti. Non l'ha più portato avanti nessuno il progetto delle schede Cybernet, pigliavano dei colpi. Mamma mia! Vabbè, adesso tu dici non c'è nessuno, quindi il problema non c'è, non ci sarebbe adesso avendo un... Io ho avuto anche il Ultimo Ode 3. Seconda metà anni 80, ma pigliava tanti di quei colpi, Dio ce ne scampi e liberi. Qua c'è questi qua tipo 3009 tutto, non prendevano i colpi che prendevano quelli, quelli erano tremendi. Adesso invece, vabbè, non scendoci nessuno negli altri canali, andrebbero ancora bene, ma non ne ho più di quelli là. Avevo il Viking 2 e l'avevo fatto fuori, l'avevo venduto tramite Antonello, mi pare. Il Viking 2 era il più misero, era solo AMFM 160 canali, non avevo altro, AMPA mi pare, no, c'era il tastino AMFM PACB, era il più primitivo, va bene. Poi tutti Trista, l'848, tutta quella serie là, non so che scheda montassero, ma credo sia sempre là, la Cybernet. Ho visto gente vendere tipo il Trista, l'848, o quello con l'eco, come si chiamava? Ecco, aspetta, cos'era? Tipo quello, insomma, 500 euro per amatori, 500 euro, milioni di lire sono mi. Uno ci piglia un bel HF usato, altro che baracchino vecchio di 30 anni poi, ma la gente è folle. E la cosa peggiore è che c'è gente che se li compra a quei prezzi. Beh, sono apparecchi da collezione. Sono apparecchiature da collezione. No, ma quelli con l'eco sono usciti molto dopo, quelli sono già abbastanza recenti. Io mi ricordo che ne avevo uno. Così proprio l'ha detto, il multimode 3, multimode 2, cioè da quello nero. Era una cosa che, guarda, forse una radiocadena era più selettiva. Era all'epoca era frequentata e pigliava parecchi colpi. Questo è molto già molto diverso. Ah, sai qual era quello che aveva un eco, ma non era proprio un eco, era un riverbero. L'ho ricordato un attimo fa, non il Tristar, ma il Major Echo. Aveva tutti lo stesso chassis, Tristar, Major Echo. Poi non ho mai avuto modo di acquistare, perché ero ragazzino e con pochi soldi. Avrei voluto provare quello marrone, Leggin Quinto, l'LMS 200, quelli non ho avuto il piacere di provarli o di averli. Leggin Quinto e l'LMS 200, c'era un modello particolare, mi pare il 2795DX, che aveva quel bip particolare. Ce l'aveva Giovanni Modigliani, se ti ricordi, faceva tui. Ce n'è. Quanti ce n'erano? I primissimi erano quelli. Il pomo di 6 canali, quello era veramente persino, che era celeste. Io l'ho avuto nero il pony 6 canali, nero, tutto nero, con un ridicolo micro smitter inutile perché segnava tutti i fondoscala. Poi avevo cannibalizzato i quarti, poi si era rovinato e sta roba bici. comunque lo rendo altoparlante, in microfono altoparlante, no? Io ti dà l'appoggio. Oh, caro caro, adesso sei Gio 2.0, così è? Esatto, da. Ricordati, d'ora in poi, regalo, ogni compleanno un regalo, ogni onomastico un regalo, poi c'è la crisi, c'è la comunione, vedrai che ti sveni tu. Sicuro. Stai uscendo a scarica, Antonè. Antonè, che tu ti ricordi qual era il più vecchio o uno dei più vecchi apparecchi multicanale, tipo 200 canali degli allora, dei primi anni 80? Può essere l'LMS200 o ce n'erano precedenti ancora? No, la verità c'era il... A parte l'LMS, vabbè, 200, quello lì, c'era Multimo 3, Multimo 2, Parecchi 2 e un altro ancora, e basta, poi non c'era nessun altro. Tutti gli altri erano Montella e basta, non c'era nessun altro ancora. No, l'LMS200 è prima metà anni 80, forse anche l'Egin Quinto era prima metà anni 80, però prima dell'80 non so se c'erano multicanali, perché prima erano ancora quarci, insomma, boh. Mi ricordo che era andato a... Tonino Gennargentu stava vendendo il suo Egin Quinto, io ero andato soldi in mano, no? Sono che poi ha cambiato idea e poi ho saputo che qualcuno che li collezionava, W doppia senza far nomi, me l'aveva soffiato, probabilmente pagandolo di più, capito? Sì, ma quello è andato molto dopo, comunque sia, c'era il banking, tutta roba dell'Amo International, è nato l'Amo International più che altro. Poi all'ultimo la tornata che è quinto, il discorso è quello lì, ma all'ultimo proprio, che è la migliore. Ah, naturalmente Antonè, ricordati che di Egin Quinto hanno fatto numerosi modelli, prima era 120 canali, mi pare ce ne siano roba di 5-6 modelli, sono passati dai 120 canali ai 200 canali, e non è unico l'Egin Quinto, sono tante versioni, anche 200 canali c'erano varie versioni, tipo col fine solo oppure col fine coars, una cosa del genere, nemmeno io ci ho capito molto. Perché sono molto simili. Appunto per quello, comunque sia, prima sono di... Vabbè, tutti quegli apparecchi lì li hanno usati, Walter, perché sono stati i primi usati, e Falco, la verità si vinca. Poi io proprio, niente, loro avevano i soldi, quindi siamo comprati, il discorso è quello lì. Poi sono andati gli anni in quinto, cose del genere, e sempre loro siamo comprati, il discorso è quello lì. Ti ricordi che io ti avevo venduto il Multimo D3, però mi ricordi che pigliava, però era bello, era completo, c'era tutti i modi di emissione, potevi ridurre i watt, togliere il bip, capito? A proposito, Gianfra, allora questo modello di 3009 non è quello che ha il bip escludibile? Ti dico le manopole e le vette che ci sono sopra, SVR, SRF, uffa, vaffanapoli. Insomma, una manopolina per il rosmetro, una NBNL, una tono alto-basso che qua non serve a niente, nella versione modificata serve per selezionare i canali di sotto, di sopra, e poi il canale 9 off. Questo è un modello che non ha purtroppo il bip escludibile, se non l'avrei tolto da quel lì. Ma fa pararle, ma no, deve fargli quanti spazi, deve escludi. Ciao Antonè, buonasera, stavo parlando di roba vecchia. Beh, sono d'accordo, comunque sia... Marco, non puoi fare, non puoi farci niente di... Se quel tipo di apparecchio è a parte, è nato così, non faccio proprio niente, quindi lascialo così com'è e va a qualcuno a un certo punto. Ha modificato, eccetera, eccetera. No, aspetta, vabbè, questo è modificato, non tocco niente. Allora, ti ricordi il quello che sta sotto a te, come si chiama? Connex 4000 Echo, quello aveva il beep fisso. E siccome il beep non lo volevo, ti avevo chiesto come lo posso levare e tu mi avevi detto devi tagliare il ponticello, sullo stampato c'era un ponticello, non lì, il ponticello J9, l'avevo tagliato e il beep era sparito. Te lo ricordi che ho fatto? Non mi ricordo, non mi ricordo più perché ormai le modifiche sono incoglionito e mi sono passato di mezzo la verità, e sai quante modifiche mi sono passato di mano, addirittura modificare un apparato per dire che mi è capitato per sbaglio la verità, ho fatto male a non segnare un apparato a 4 bande, 5 bande, quello che era aveva passato dai 28 ai 32. Infatti non lo sono segnato, è stato stronzo, non lo fatto, mi sei fatto un sacco di soldi, è stato imbecille io. Ecco, io ho contratto quando lavoravo da Prospero, due apparati uguali, cioè quasi uguali, più che altro, uno era un modello, uno era un altro, però integrato era uguale e c'era un po' che c'era da fare. L'altro PDU mi sembra il primo. Tutto lì. E partiva in pratica da 28 a 32 andava. La verità non me lo sono segnato, sono stato imbecille a farlo io. So questo avrei fatto un sacco di musiche per dire, nell'apparato normale che ho io, a partire avrei fatto da 27 con un tastino, da 28 a 32 per il mattone. Vabbè, ma sui 32 per parlare con chi? Ascolta, è il famoso Polmar, qual era? Quel Polmar 280 canali, come si chiamava? Il Polmar Oregon, com'era? Un bidone in ricezione? No, no, era buono, il Polmar Oregon, perché mi ricordo io, andava veramente bene. Che poi aveva un suo alias, esisteva il Formac 777 che aveva la stessa estetica, cambiava solo il colore ma era lo stesso apparato. E mi pare che avesse anziché 240 canali, aveva 280, saliva molto in alto di canali, ma poi alla fine è tutto inutile perché con chi parli col muro? E appunto, con chi parli con nessuno parli, a un certo punto. Che buonasera, non c'è Gio Maria? Dormito, sì. Dove è dormito? Non c'è. Chiamalo. Dopo ho dormito, sì. No, già sono sveglio io, per tardio. Sì, ci mancherebbe. Ma che lo facendo, sai? Ah? Ma che lo facendo, sai? No, non sto facendo, sono a casa adesso, perché poco fa ero in giro in bicicletta e me ne sta scendo la canna. Tu in bicicletta? E cosa è successo? Mi ero aspettato la bicicletta, stavo provando a vedere, ma cazzo, pericolosa. Compra cazzo la bicicletta? Non mi... bicicletta no, meglio cazzo un aspiratore di quelli per coso. Andiamo a pescare, forse è meglio. Una bomba di gas mi prendo, quella di... me la metto dietro e poi vado a fare il giro in bicicletta fino a Ussino. Ehi, Luca, ma sì sì. Oh, yeah. Vabbè Gianfra, io ho visto, prima erano belli pieni, portatili anche, no? Se li aprivi dentro, se tu guardi l'Aran 42 Multi, il portatile della Midland, se tu li togli dalla parte del pacco batterie, dentro è vuoto, c'è quattro componenti in croce, ma come fa a funzionare? Non so se l'hai visto aperto il portatile della Midland. Ma trovano niente praticamente, ma è allucinante, è proprio, oh, vabbè. Il Max con 7 della Maxon era sempre, io l'ho visto da Pomponio. Pomponio aveva questo portatile bianco, con questa custodia finta a pelle, no? E poi l'avevo preso in seguito. Lui si si va bene di radio, una radio bella squillante, suoni un po' acuti, però. Ed era in kit, quei portatili kit emergenza, ti davano presa accendisigari, la basettina magnetica sulla quale avvitavi il suo stilo, no? Che era ad avvitamento. E tutti quegli accessori ti davano. L'attacco accendisigari, tutte quelle menate là, capito? Tutti gli accessori per la macchina. Però almeno sempre meglio di quelli di adesso, e caspita, anzi è un po' fermo, lo devo muovere perché sennò poi si rovina. Vabbè, comunque io ne ho avuti vari, ho avuto quelli tipo CDR 33 marcati Great, poi ho avuto un Inno Hit quarciabile 6 canali, lo stesso con questo antennone non finiva più, avevo un bello Smitter al centro, mi ricordo. Poi cos'altro ho avuto di quei portatili? Manco me ne ricordo più. E imbattevano un sacco quelli là, caspita. Peccato per le batterie stilo ricaricabili che erano solo da 500 mAh, cioè facevi due passaggi ed era una scarica. E vabbè, pazienza. Adesso hai le batterie ma non c'hai antenna in questi portatili. Non ha senso. Riprendi Pomponio. Comunque sono venuto stamattina, la luce è bella, lo sai. Io sono andato, quindi non la mai, ho con la responsabilità. Adesso domani parlavo con il mio postino plastica, là. Così si sono No, credo fosse rivolto a Luca. Luca della Monta. No, Gianfranco glielo ho detto che si è diventato prozio, o come si dice, ma credo si dica zio lo stesso. Zio bis, zio al quadrato, zio 2.0. Esatto, sì. 2.0, esatto, sì. Ma è bello. È uguale a verità. Daniele, grazie a Dio, non la papà, come la madre, meglio la mamma che la papà, la verità, perché il papà, se lo vedi per carità, meglio lo coso, una cabella caduta. Cioè assomiglia più alla mamma che al babbo lì, a quel ragazzo. Esatto, sì. Vabbè, il ragazzo c'ha 17 anni, me lo sai, quindi secondo te è a avere un figlio. Tu cosa avresti fatto a 17 anni? Se c'è un figlio. No, io ho sempre comprato i profilattici, appena ero in età da riproduzione, sempre profilattici. Ma se tu vai da Auchan, stanno dando quei profilattici un po' di marca, un po', però tanto sono tutti controllati ad acqua, ad aria, teoricamente, 3 profilattici, 1 euro, aiuto. Quando mai al giorno d'oggi uno non si munisce di protezioni? Già c'è tempo a fare figli. Vabbè, non è quello il problema, già ci sono me. Adesso dirò che non riesco, forse ci sono i profilattici bancati c'è, in modo che siano tranquilli, che non si buchino, perché è strano la cosa. Antone, ma sai cosa ho visto dai negozi cinesi? Dal negozio di cinesi avevano i profilattici marca cinese, ma non ti nandi, poi si buca, ti nasce il figlio cinese, ti nasce, vai Gianfra. No, io mi stavo guardando le radio fritte, quelle invece della politica, degli anni 70, 60. Te ne ricordi ancora le prode? Dovevi mettere la batteria nel coppano. Già per il coro, non ti preoccupare. Ma siamo passati quei tempi. Per carità. Allora Marco. Tutto a posto, sì. Già mi sono, dopo mangiato, già mi sono un po' ripreso dallo shock di stanotte, che veramente ho esagerato, la notte è fatta per dormire, se non dormi poi è tutto, sei tutto scombussolato. Vediamo se è rientrato Gio Maria. Gio Maria, ci sei? Cos'hai mangiato? Un esame, mangiare. No, te l'ho detto, no, alla radio. Sono rimasto fino alle 6 a guardarmi video di YouTube. No, io porn, YouTube. Ho visto proprio la luce fuori, ho detto. Poi sai, mezz'oretta circa addormentarsi all'anima. Infatti stamattina non ero in grado né di parlare né di camminare. Ero in condizioni di pietose. Ti prego, togli l'eco perché mi rimbomba nel cervello. Se puoi, me l'ho dimenticato, la verità. Sono costato un eco, quindi figurati tu. Me l'ho dimenticato, cioè, di averci messo l'eco, l'avevo scritto. E stamattina che usavo l'eco perché c'era propagazione. Ho fatto un paio di collegamenti, dopodiché mi sono dimenticato di toglierlo, la verità si ricapa. Anzi c'era mio nipote, la verità, forse l'ha inserito lui, Daniele, perché mi ha detto, dice, da oggi io non mi interessa niente, io non sono vecchio, io non, anche se sono zio sono vecchio, ho detto, ho 5 anni. Ah, ok. Bene, bene, bene. Naturalmente Gianfra, io sono entrato in radio nell'84 la prima volta, quindi conosco le radio più o meno di quel periodo, ma non quelle di prima. Perché da vecchi cataloghi Intec, prima proprio dall'81 che avevo trovato non so dove, i portatili vedevo che erano tipo due canali, 200 milliwatt, roba del genere. C'erano 200 milliwatt, roba del genere. Poi hanno cominciato a aumentare, un watt e mezzo, due o tre canali quarzabili, poi hanno cominciato a alzare, 3 watt, 4. Non mi ricordo cosa c'era proprio prima, fine anni 70, che portatili c'erano. Solo portatili e non spalleggiabili. Quindi sei venuto molto dopo. No, io sono degli anni 70, quindi a quell'epoca erano già le prime radio, eccetera. Ma tu mi hai detto roba marca Zodiac, sicuramente, forse Elbex, non lo so che portatili c'erano. E le potenze non lo so, non le conosco. Mi ricordo una cosa però, che avevo preso questi portatilini, tipo 2-3 canali 100 milliwatt, dalla Inter, che noi ci riportavamo nelle gite a Montevecchio, quando andavamo in zone belle, in mezzo alla natura, e non ci lasciavano mai, modulazione chiara, limpida, le antenne diciamo erano una via di mezzo, comunque abbastanza lunghe erano, dai, forse leggermente caricate sotto, e facevano il loro sporco lavoro, per esempio. Sì, e là c'è la roba, diciamo, funzionava nel caso, certo non si vede subito, eravamo mai stati da troppo. Mi allontano un attimino, riprendo dopo. Ehi, Gianfra, ore sono? 7:50. Ma pazienza, volevo fare il tema, ormai è tardi. Avanti Svizzera, avanti. Scusez-moi, non parlo francese, come si dice, non speak French. Salvami Antonello. Vabbè, Querix per me, dai.